il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Dedichiamo la puntata di questa settimana a Venezia, o meglio alla valorizzazione dei prodotti tipici e agricoli del territorio veneziano. Lo facciamo con Lucio Gianni, assessore all'attività produttiva, all'agricoltura e all'alimentazione della provincia di Venezia. Assessore, Venezia è conosciuta nel mondo per la sua bellezza e per l'arte. I frutti dell'agricoltura e della gastronomia, sia lagunare che dell'entroterra, possono veramente essere un'ulteriore attrattiva turistica, una nuova scoperta? È una grossa riscoperta, è una rivalutazione anche di ciò che noi possediamo e che abbiamo sempre posseduto. Allora, la regione Veneto è la prima regione nel paese Italia come presenze turistiche, la provincia di Venezia è la prima nella regione Veneto, quindi è innegabile che siamo i primi nel paese Italia, ma mi risulta che siamo anche tra i primi a livello europeo come presenza. È innegabile che noi abbiamo la perla che si chiama Venezia, che ha una grossa attrattiva, e Venezia resterà sempre Venezia e quindi sarà sempre la nostra punta di diamante. Però c'è una grossa riscoperta di tutto un territorio che circonda Venezia, di un territorio che sta assumendo sempre maggiore attenzione da parte anche di turisti stranieri e anche da parte di realtà turistiche che organizzano tour operator, che organizzano nel nostro territorio. E uno dei punti all'occhiello, proprio come attrattiva, è la nostra gastronomia, le nostre eccellenze. Quindi il nostro vino, i nostri prodotti della terra, questi prodotti che vengono trasformati in gastronomia, uno dei primi. Poi attorno ci costruiamo le bellezze, la possibilità di visitare le bellezze artistiche, culturali. Non possiamo dimenticare anche l'outlet di Noventa di Piave sta diventando una grossa attrattiva per turisti che vengono dall'est, quindi russi, cinesi, perché dopo aver assaggiato la nostra ospitalità, i nostri cibi, il nostro benessere di stare qui in contatto con la natura nei territori che circondano Venezia, dopo aver visitato Venezia, loro devono anche fare degli acquisti e amano tornare a casa con le valigie piene di prodotti. Cioè, c'è veramente questo territorio che sta offrendo tutta una serie di gamme di possibilità per accogliere questo nuovo tipo di turismo che proviene dai paesi dell'est, tutti questi nuovi turisti che si stanno affacciando al nostro paese, all'Italia, che si stanno affacciando alla nostra regione e alla nostra provincia. E noi con la gastronomia, con la riscoperta di quello che noi abbiamo sempre avuto, ma che forse per un senso di inferiorità a volte abbiamo dimenticato, abbiamo perso, oggi lo stiamo riscoprendo e stiamo riacquistando, diciamo, forza nelle nostre capacità, in quello che noi sappiamo fare. Io dico sempre, noi ci siamo inventati tante cose, la chimica, l'industria, ma poi la nostra materia prima è la terra, la nostra intelligenza, le nostre braccia, e queste le stiamo mettendo in opera. Ecco, Venezia è conosciuta per le bellezze artistiche, ma forse un po' meno per i prodotti. In realtà è anche una provincia molto lunga, costiera, c'è l'entroterra, cioè si va dal radicchio di Chioggia, dei prodotti della terra a sud, fino alle docche del vino nella parte nord. Ma quali sono i prodotti su cui può puntare un territorio come Venezia? Allora, la provincia di Venezia è stretta e lunga, io dico spesso scherzando che è fatta a banana. E questa sua particolarità, costeggiando tutta la costa adriatica, perché tutta la costa della regione Veneto è di fatto in provincia di Venezia, quindi a parte un pezzettino in provincia di Rovigo, ma è tutta in provincia di Venezia. Questa sua particolarità ha fatto sì che nascessero tutta una serie di prodotti che sono particolari, che sono unici, noi cominciamo dalla zona sud, che tutti gli orti di Chioggia, che noi abbiamo già delle eccellenze là importanti, che sono uniche nel nostro territorio. Pensiamo chiaramente, ci viene in mente subito il radicchio di Chioggia, il GP, ma abbiamo anche la zucca marina, abbiamo le patate, abbiamo le cipolle, abbiamo il sedano e quindi altri prodotti. Poi ci spostiamo verso nord e arriviamo al cavallino, abbiamo i pomodori, abbiamo l'insalata, abbiamo tutta una gamma di asparagi, perché noi abbiamo 3-4 tipi di asparagi in provincia. Poi andiamo su, arriviamo alla zona di Pramaggiore, dove abbiamo il vino, abbiamo innegabilmente questo vino che sta diventando sempre più importante, Quindi in tutta questa gamma non possiamo dimenticare le carote, non possiamo dimenticare le fragole, cioè veramente... Il pesce anche? Beh, il pesce è chiaro, costa, noi abbiamo chioggia, abbiamo caule che ci danno sicuramente, sono e poi anche la laguna con le vongole, diciamo che abbiamo molte, molte possibilità. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con l'assessore Lucio Gianni, assessore alle attività produttive, agricoltura e alimentazione della provincia di Venezia, e stiamo parlando della valorizzazione del territorio veneziano tramite i prodotti tipici. In un turismo che sta diventando sempre più mordi e fuggi, come quello che citava lei, anche di persone che arrivano dall'est, magari fanno un grand tour, cinesi, russi, ma anche gli stessi europei o italiani, come si concilia con la scoperta di prodotti locali che richiederebbero anche un po' di tempo per andare a scoprirli, sedersi alla tavola di un ristorante o di un agriturismo con tranquillità, invece in poche ore bisogna fare tutto? Guarda, io uso una frase di un grande pontefice, un grande papa: bisogna saper leggere i segni dei tempi. nel leggere i segni di tempi dobbiamo dire che queste persone che hanno voglia di vedere, e non, di vedere non poco, ma in poco tempo vedere tanto, cos'è che chiedono? Chiedono sì di vedere Venezia, ma di vedere anche Venezia, ma dopo di essere un po' tranquilli, di avere la possibilità di sedersi a tavola, di mangiare, di poter godere di quella pace che noi abbiamo, perché tutto sommato noi siamo, ci dicono che siamo frenetici, che corriamo, probabilmente se noi andiamo verso il meridione trovano più tranquillità, più lentezza, ma rispetto alla frenesia di dove loro provengono, a questa improvvisa ricchezza che oggi si trovano a vivere, perché sono paesi che fino a non molti anni fa vivevano in uno stato di non dico di povertà, ma un po' di privazioni. Oggi quelli che stanno emergendo come i nuovi ricchi vogliono avere anche quando arrivano, vedere, conoscere, ma soprattutto vogliono anche avere la possibilità, se si fermano un giorno fuori Venezia, vogliono fermarsi in un posto dove posso mangiare bene e, ripeto, dove tornare anche indietro con qualche bel acquisto interessante. E guardate, l'attenzione è strana, perché sono disposti a spendere anche qualche soldino in più, ma portano a casa un Made in Italy, e per loro sta diventando importante, e anche il cibo per loro è importante, se è un cibo Made in Italy. È questo che a volte sfugge. Noi siamo il paese che offre i prodotti migliori dal punto di vista della qualità, della ricercatezza della qualità, e anche dal punto di vista della sicurezza alimentare, dal punto di vista medico-sanitario. Siamo il paese che esporta queste capacità e poi siamo quello che lo usa meno. Cioè, noi mangiamo i prodotti di fretta, li compriamo al supermercato. Ecco, queste persone che invece tutto l'anno mangiano i prodotti del supermercato di corsa, quando vengono qua vogliono il Made in Italy, che può essere nella borsa, nelle scarpe, nei vestiti, ma il Made in Italy è anche sedersi a tavola e di mangiare un bel piatto di spaghetti fatti magari con le vongole o con altri prodotti da terra, o con i fagioli, insomma, prodotti che noi possiamo offrire. Grazie, assessore. Passiamo adesso ad alcune notizie. Franco Manzato, assessore all'agricoltura della Regione Veneto, ha presentato ieri alla stampa i contenuti finanziari e le linee guida della politica agricola regionale per il periodo di programmazione 2014-2020. Il Veneto inizia il suo cammino con una dotazione di partenza di 1 miliardo e 180 milioni di euro tra finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e regionali. Positivi sono stati i commenti delle principali organizzazioni degli agricoltori del Veneto. Le risorse sono comunque inferiori al periodo precedente, auspichiamo quindi che siano un vero investimento e non vi siano sprechi, ha affermato il presidente di CIA Veneto, Flavio Furlani. Mentre Giorgio Piazza, di Coldiretti, ha puntato sull'importanza del cosiddetto secondo pilastro, ovvero gli investimenti nel territorio per far fare un salto di qualità all'agricoltura. Gian Giacomo Scotti Bonaldi, presidente di Confagricoltura Veneto, ha chiesto che gli aiuti servano a rendere più compatto il nostro sistema agricolo e aiutarlo a stare sul mercato. Prende il via il 12 febbraio il secondo ciclo di 5 incontri organizzati da Confagricoltura Veneto nell'ambito del progetto L'azienda agricoltura multifunzionale. Verranno approfondite alcune funzioni in cui l'azienda agricola può diversificare le proprie attività e affrontare con più efficacia la sfida della sostenibilità ambientale ed economica. Il 12 febbraio si parla di agricoltura ed energie, il 26 di tutela ambientale e paesaggistica, il 12 marzo di funzione turistica, il 26 marzo della funzione di vendita e infine il 16 aprile vi sarà un seminario tecnico. Gli incontri si terranno nella sede di Confagricoltura a Verona, in via Somma Campagna 63E a Verona. Melograno Pianta Generosa è il titolo di un convegno che Coop Agri promuove venerdì 31 gennaio alle ore 14.30 nella sede del Park Hotel Continental di San Donà di Piave. Verranno presentati i risultati di un progetto sperimentale di coltivazione di melograni nel territorio veneziano per promuovere la diffusione di questo prodotto oggi sempre più richiesto dal mercato. Il progetto ha portato alla messa a dimora di 1.500 piante nei territori dei comuni di Torre di Mosto e di Meolo. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento al quadrifoglio alla prossima e vi ricordiamo che ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.